Un dolore profondo come quello di mia madre dovevo conoscerlo un giorno, e lo si constaterà nel seguito di questo racconto, ma non adesso, né era così che me l'immaginavo. Eppure, non diversamente da un attore che dovrebbe conoscere la sua parte ed essere al suo posto da molto tempo, ma arrivato solo all'ultimo istante ed avendo letto una sola volta il copione, sa fingere, quando gli tocca la battuta, con abilità sufficiente a far sì che nessuno s'accorga del suo ritardo, il mio dolore, nuovo di zecca, mi permise, appena fui raggiunto da mia madre, di parlarle come se fosse sempre stato tale. Lei si limitò a pensare che la vista di quei luoghi dove ero stato con la nonna l'avesse risvegliato, e non era così. Per la prima volta, allora, e perché provavo un dolore che non era nulla in confronto al suo, ma che mi apriva gli occhi, mi resi conto con angoscia di quanto potesse soffrire. Per la prima volta capii come lo sguardo fisso e senza lacrime, causa della scarsa commiserazione tributatale da Françoise, che aveva dal tempo della morte di sua madre, fosse ancorato a quell'incomprensibile contraddizione del ricordo e del nulla. D'altronde, apparendomi vestita con più cura del solito in quel nuovo paese, sebbene portasse sempre i suoi veli neri, ero ancora più colpito dalla trasformazione avvenuta in lei. Dire che aveva perduto ogni gaiezza è dire poco. Fusa e raggelata in una sorta di immagine implorante, sembrava aver paura d'offendere con un movimento troppo brusco, con un tono di voce troppo alto, la presenza dolorosa che non la lasciava un solo istante. Ma soprattutto, non appena la vidi entrare con indosso il suo cappotto di crespo, m'accorsi, cosa che a Parigi m'era sfuggita, che a starmi dinanzi non era più la mamma, ma la nonna. Come nelle case reali e ducali, alla morte del capofamiglia il figlio assume il titolo e da duca d'Orléans, da principe di Taranto o da principe de Lhomme, diventa re di Francia, duca di La Tremoille o duca di Grammont, così spesso, grazie a un avvento d'altra natura e d'origine più profonda, il morto si impadronisce del vivo che diventa il suo somigliante successore, il continuatore della sua vita interrotta. Forse il grande dolore che consegue in una figlia qual era la mamma alla morte di sua madre non fa che spezzare più presto la crisalide, accelerare la metamorfosi e la comparsa d'un essere che ci si porta dentro e che, in mancanza d'una crisi capace di far bruciare le tappe e saltare di colpo varie fasi, sarebbe sopraggiunto più lentamente. Forse, nel rimpianto di colei che non è più, vi è una sorta di suggestione che finisce col far affiorare sui nostri lineamenti delle somiglianze che già avevamo in potenza, e soprattutto vi è un arresto della nostra attività, più specificamente individuale, nel caso di mia madre il buon senso, l'allegria scanzonata ereditati da suo padre, che non esitavamo finché la persona amata era in vita ad esercitare, magari anche a sue spese, e che controbilanciava i tratti di carattere per i quali eravamo eredi suoi e solo suoi. Morta lei, ci faremmo scrupolo d'essere diversi. Ormai ammiriamo soltanto ciò che lei era, che anche noi eravamo, ma mischiato ancora a qualcos'altro, e che saremo, d'ora in poi, in modo esclusivo. In questo senso, e non in quello così vago, così falso, che si crede di solito, si può dire che la morte non è inutile, che i morti continuano ad agire su di noi. Agiscono, anzi, più dei vivi, perché la vera realtà non è tratta alla luce che dalla mente, è l'oggetto di un'operazione intellettuale, così che noi conosciamo veramente solo quanto siamo costretti a ricreare col pensiero quanto la vita di tutti i giorni ci nasconde. Insomma, nel culto del rimpianto per i nostri morti si nasconde un'idolatria per ciò che essi hanno amato. Non soltanto la mamma non poteva separarsi dalla borsa della nonna, diventata più preziosa che se fosse stata di zaffiri e di diamanti, dal suo manicotto, da tutti quei capi di vestiario che accentuavano ulteriormente la somiglianza tra loro, ma nemmeno dai volumi di Madame de Sévigné, che la nonna aveva sempre con sé e che mia madre non avrebbe scambiati col manoscritto originale delle lettere. Un tempo prendeva in giro la nonna, che non le scriveva mai senza citare una frase di Madame de Sévigné o di Madame de Beausargent. In ciascuna delle tre lettere speditemi prima di venire a Balbec, la mamma mi citò Madame de Sévigné come se non lei le avesse indirizzate a me, ma la nonna a lei. Volle spingersi fin sulla diga a vedere la spiaggia di cui la nonna, nelle sue missive, le parlava quotidianamente. Dalla finestra la vidi tutta nera, con in mano l'ombrellino della nonna, avanzare a passi timidi e pii sulla sabbia che piedi adorati avevano calcata prima di lei. E sembrava che andasse alla ricerca d'una morta che le onde dovessero riportare a riva. Per non lasciarla sola, dovetti scendere a pranzo con lei. Il primo presidente e la vedova del presidente dell'ordine mi chiesero d'esserle presentati. E la mamma era così sensibile a tutto quanto riguardasse la nonna che provò un'intensa commozione. Serbò eterna riconoscenza e memoria di ciò che lui le disse, mentre soffrì e si indignò per il fatto che lei non avesse avuto una sola parola di ricordo per la defunta. In realtà, il primo presidente non se ne curava certo più della vedova del presidente dell'ordine. Gli accenti commossi dell'uno e il silenzio dell'altra, sebbene mia madre vi scorgesse un così radicale contrasto, non erano che due modi diversi d'esprimere l'indifferenza ispirataci dai morti. Ma credo che alla mamma suonassero dolci soprattutto le parole da cui, mio malgrado, lasciai trapelare un po' della mia sofferenza. Questa non poteva che renderla felice, nonostante il suo affetto per me, come tutto ciò che assicurava alla nonna una sopravvivenza nei cuori. In ciascuno dei giorni successivi, la mamma andò a sedersi sulla spiaggia per fare esattamente quello che aveva fatto sua madre e leggeva i suoi due libri preferiti, le Memorie di Madame de Beausargent e le Lettere di Madame de Sévigné. Come a tutti noi, le era sempre parso intollerabile che quest'ultima venisse definita la spiritosa marchesa. Ne sopportava del resto che si dicesse il buon La Fontaine, ma quando in quell'epistolario leggeva la formula figlia mia, aveva l'impressione che sua madre le rivolgesse la parola. Ebbe la sfortuna, in uno di quei pellegrinaggi durante i quali non voleva essere distratta, di incontrare sulla spiaggia una signora di Combray, seguita dalle figlie. Mi pare si chiamasse Madame Poussin, ma fra di noi la chiamavamo sempre, me lo saprai dire, perché era con questa frase perennemente ripetuta che metteva in guardia le figlie dai mali cui andavano incontro, per esempio dicendo a una che si stropicciava gli occhi: quando ti sarai presa una bella oftalmia, me lo saprai dire. Indirizzò da lontano alla mamma lunghi saluti sconsolati, non in segno di condoglianza, ma per un certo suo tipo d'educazione. Se anche la nonna non ci fosse venuta a mancare e non avessimo avuto che motivi per essere felici, si sarebbe comportata allo stesso modo. Vivendo piuttosto ritirata a Combray in un immenso giardino, trovava che niente fosse mai abbastanza dolce, sicché addolciva, a modo suo, le parole e persino i nomi della lingua francese. Le sembrava troppo duro chiamare cucchiaino la posata d'argento che usava per i suoi sciroppi, e così diceva cucchiaino. Avrebbe temuto di brutalizzare il dolce cantore di Télémaque chiamandolo rudemente Fénelon, come facevo anch'io e con cognizione di causa, giacché il mio amico più caro, l'essere più intelligente, forte e valoroso, indimenticabile per chiunque l'abbia conosciuto, era Bertrand de Fénelon. E diceva sempre Fénelon, stimando che l'accento acuto aggiungesse una qualche mollezza. Il genero, non altrettanto dolce, di questa Madame Poussin, del quale ho dimenticato il nome, era notaio a Combray e fuggì con la cassa, facendo perdere a mio zio in particolare una somma abbastanza rilevante. Ma la maggior parte dei cittadini di Combray era in così buoni rapporti con gli altri membri della famiglia che non ne risultò alcun rancore e ci si limitò a commiserare la povera Madame Poussin. Non riceveva mai, ma ogni volta che si passava davanti al suo cancello ci si fermava ad ammirare l'ammirevole ombra dei suoi alberi senza riuscire a distinguere nient'altro. Ci diede ben poco disturbo a Balbec, dove la incontrai una sola volta mentre stava dicendo a una delle sue figlie, che si rosicchiava le unghie, «Quando ti sarà venuto un bel patereccio, me lo saprai dire». Mentre la mamma leggeva sulla spiaggia, io restavo solo in camera. Ricordavo gli ultimi giorni di vita della nonna e tutto quanto si riferiva ad essi, la porta della scala tenuta aperta quando eravamo usciti per la sua ultima passeggiata. In contrasto con tutto ciò, il resto del mondo sembrava appena reale e la mia sofferenza l'avvelenava per intero. Alla fine, mia madre pretese che uscissi. Ma ad ogni passo, qualche aspetto dimenticato del casinò, della via dove la prima sera, aspettandola, m'ero spinto sino al monumento di Duguay-Trouin, mi impediva, come un vento contro il quale è inutile lottare, di procedere oltre. Abbassavo gli occhi per non vedere. Poi, riacquistate un po' di forze, tornavo verso l'albergo. Quell'albergo in cui mi era ormai impossibile, lo sapevo, per quanto a lungo potessi attendere, ritrovare la nonna come l'avevo ritrovata allora, la sera dell'arrivo. Poiché era la prima volta che uscivo, molti domestici che non avevo ancora visti mi guardarono incuriositi. Proprio sulla soglia dell'albergo, un giovane fattorino si tolse il berretto per salutarmi e subito se lo rimise in testa. Pensai che Aimé gli avesse, secondo la sua tipica espressione, passato consegna d'usarmi dei riguardi, ma nello stesso momento vidi che se lo toglieva di nuovo per un'altra persona che stava rientrando. La verità era che nella vita quel giovanotto non sapeva far altro che togliersi e rimettersi in testa il berretto e lo faceva con assoluta perfezione. Resosi conto di non essere capace d'altro e di eccellere in quel gesto, lo eseguiva ogni giorno il maggior numero possibile di volte, il che gli fruttava, da parte dei clienti, una simpatia discreta ma generale, nonché una spiccata simpatia da parte del portiere cui spettava il compito d'assumere i fattorini e che prima di quella rara avis non era riuscito a trovarne uno che non si facesse licenziare nel giro di una settimana, con grande stupore di Aimé, che commentava «E pensare che in quel mestiere non gli si chiede altro, praticamente che un po' di gentilezza, non dovrebbe essere così difficile». Quanto al direttore, gli premeva che fossero presenti, con ciò intendendo dire che stessero sul posto, o forse confondendo presenti con prestanti. La conformazione del prato che si stendeva dietro l'albergo era stata modificata dalla creazione di alcune aiuole fiorite e dalla scomparsa non solo di un arbusto esotico, ma anche del fattorino che il primo anno decorava esteriormente l'ingresso con lo stelo flessuoso della sua figura e la singolare colorazione della sua capigliatura. Se n'era andato con una contessa polacca che l'aveva assunto come segretario, seguendo in questo le orme dei due fratelli maggiori e della sorella datilografa, strappati all'albergo da personalità di paesi e sesso diversi che s'erano invaghite del loro fascino. Restava solo il fratello minore, al quale non si interessava nessuno perché era strabico. Era tutto contento quando la contessa polacca e i protettori degli altri due venivano a passare qualche settimana nell'albergo di Balbec. Infatti, pur invidiandoli, era rimasto affezionato ai suoi fratelli e quei soggiorni gli permettevano di coltivare, per un po' di tempo, dei sentimenti familiari. La badessa di Fontevraud non aveva forse l'abitudine, abbandonando per questo le sue monache, d'andare a condividere l'ospitalità offerta da Luigi XIV all'altra Mortemart, la sua amante, Madame de Montespan?